Mi chiamo Giusy, ho 33 anni, sono mamma di due bambini, tra cui uno speciale. Mi è finito il contratto ho avuto il contratto di fine locazione. A maggio mi è arrivata una lettera dell'agenzia di cui noi paghiamo l'affitto, mi è arrivata questa lettera a casa con dicendo che a fine locazione, dai 5,50 che avevo sempre pagato negli 8 anni, si iniziava a pagare 1.200 euro. Nel momento in cui siamo andati lì a colloquio e ci hanno detto questa cosa, io ovviamente mi sono fatto un passo indietro perché non sarebbe più del mio stipendio, quindi non riesco a pagare. E niente, in quel momento lì ho deciso di recarmi dagli assistenti sociali e l'assistente sociale mi ha proposto una comunità a fine locazione, però io sono andata 6 mesi prima, mi ha proposto una comunità a 80 km da Bologna. Io sono a piedi, il bambino in quella scuola ha il sostegno, sarebbe una cosa troppo difficile per me, anche perché io non è che giovassi di un'ottima salute, ho anche io dei problemi di salute importanti, e quindi decido il 16 giugno di scrivere al sindaco. Scrivo al sindaco chiedendo un appuntamento e lui mi risponde dicendomi: signora, mi elenchi prima quali sono le sue esigenze. Nel momento in cui ho elencato tutte le problematiche mie, del bambino, il fatto di comunque non riuscire a pagare quella somma così importante per me, perché comunque sono monogenitore, perché comunque io non percepisco dall'altra parte né un aiuto morale né un aiuto economico, e il sindaco lì, dopo varie volte che io ho girato e rigirato sempre la stessa mail, non mi ha più risposto. Ero un giorno, perché i bambini comunque fanno sport, fanno calcio e fanno parte dell'HSL di Bologna, che è una società di calcio dove è antirazzismo, fanno delle cose proprio belle per i bambini. Ero lì, ero triste, ho avuto un momento di sconforto, stavo piangendo e la mister mi viene accanto dicendo: cosa è successo? Gli spiegai comunque che ero molto preoccupata, molto provata per questa situazione, perché non sapevo che fine avessi potuto fare con questi bambini. Lei mi disse: guarda che c'è un ufficio in via Nicolo dell'Arca, che sarebbe Plat, dice, prova a chiedere lì se ti possono aiutare in qualche modo. E poi niente, sono stata con loro, ho partecipato ai vari sfratti, ai vari picchetti antisfratto, e adesso siamo qui, stiamo bene, stiamo facendo un po' di autorecupero, abbiamo fatto delle grandi pulizie, stiamo tranquilli, stiamo sereni, abbiamo la luce, abbiamo i beni primari, abbiamo chi cucina anche per noi, che si sono messi a disposizione i ragazzi di Fornelli Ribelli. Siamo seguiti, sostenuti al 100%, perché comunque una situazione del genere non è facile e semplice da affrontare. Ci sono momenti in cui ti rendi conto che sei abbandonata a te stessa e questa situazione ti fa male. Fortunatamente ci sono loro dietro che ci fanno da pilastro, un po' ci tamponano in ogni modo, ci aiutano in ogni modo possibile e immaginabile. E niente, adesso siamo qui e speriamo di uscire da qui con una soluzione, perché noi siamo consapevoli che l'occupazione non è una cosa legale, ma non è legale neppure stare per strada con dei bambini, non è legale neppure essere abbandonati da chi ci dovrebbe tutelare e difendere. E noi qui, al di là di tutte queste emozioni che tra di loro sono forti, ci sono stati tutte le altre famiglie e adesso siamo un'unica famiglia grande, molto molto molto allargata, con tanti bambini, dove ci sta tanta solidarietà, ci aiutiamo una parte con l'altra. Per quanto sia una situazione difficile, comunque abbiamo perso le nostre case ma abbiamo trovato altro, e da qui andremo via quando, da questa torta grande che è Bologna, ognuno avrà la nostra fetta, altrimenti noi non andiamo via.